Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Marianna Stefanucci. Ogni anno l'arrivo dell'estate è annunciato dal nuovo tormentone di stagione, al quale, accendendo la radio, entrando in un negozio o andando a ballare, è letteralmente impossibile sfuggire. Il tormentone è una canzone leggera e orecchiabile che per sua natura si adatta particolarmente ai tempi dilatati del caldo, tra piscine e ombrelloni accalcati sulle spiagge. Spesso, partito in Italia o altrove, supera i confini nazionali e risulta impossibile evitarlo, anche andando all'estero, quando ormai le orecchie gridano basta all'ennesima messa in onda. Costruire un tormentone estivo è un'operazione molto complessa, per la quale diversi musicisti si sono letteralmente specializzati. Bob Sinclair, il DJ francese in grado di radunare migliaia di persone che ballano sulle note delle sue hit, spiega così la sua magica ricetta. Io ho una grande fortuna. So come fare una hit. Cerco sempre di creare un nuovo stile, ma ispirandomi al passato. Punto a un'armonia emozionante, a un messaggio chiaro e a una ritmica che abbia carattere. La cosa più lontana rispetto alla logica della ripetizione è la musica indie, abbreviazione inglese che sta per independent. Si tratta di quel miscuglio complesso e affascinante di sottogeneri che per etichetta discografica, gusto e approccio si distanzia nettamente dalla cultura più popolare. Ne sono testimoni le parole di Billy Corgan, leader degli Smashing Pumpkins. Ottengo di più dalla vita essendo me stesso, essendo un semplice essere umano. Non dal fatto di essere una rock star o qualsiasi altra cosa. Non mi interessa piacere a tutti. Mi interessa essere rispettato perché sono me stesso e non scendo a compromessi. Carattere indipendente e tormentone cantato a squarciagola nelle strade, due cose apparentemente inconciliabili. Un conto è associare la qualità all'apprezzamento del grande pubblico, operazione di per sé già tutt'altro che facile. Ma riuscire a unire ripetizione ossessiva di un proprio pezzo e ricerca musicale è qualcosa che ha davvero del funambolico. Ma qualcuno ce l'ha fatta. Ed è questa la storia che raccontiamo oggi a Destini Incrociati. Ci sono diverse strade per fare una canzone di successo. Il colpo di fortuna di un esordiente destinato senza troppe vie di mezzo a sfondare o a finire nel dimenticatoio. La costruzione di una hit da lanciare con marketing massiccio. O magari, per qualche cantante, l'occasione per diventare davvero indimenticabili e fare la colonna sonora di un grande evento. Per esempio, i mondiali di calcio. È il 1990 e l'Italia è travolta dalla febbre mondiale. 52 partite in 31 giorni, 12 città, oltre 40.000 giornalisti accreditati e 28 miliardi di contatti televisivi. Ma contano poco i numeri di fronte all'emozione di un paese in festa, che con Gianna Nannini ed Edoardo Bennato canta un'estate italiana, entrata nel bagaglio di tutti quelli che c'erano e anche di quelli che sono venuti dopo. I mondiali sono un evento dal potere unico, in grado di catturare milioni di persone, in grado di creare un tempo sospeso in cui il normale scorrere della quotidianità sembra rallentare fino a fermarsi. Baraffolatissimi in religioso silenzio, generazioni davanti allo stesso schermo, giornali che si affannano per fare previsioni dettagliate in uno scontro tra popoli che per una volta è solo sportivo. I cinque continenti trattengono il respiro di fronte a una palla che deve o non deve entrare in rete. Ogni mondiale ha la sua colonna sonora, una compilation di canzoni, cori, voci diverse che accompagnano ogni partita. Il pezzo di punta della passata edizione ha saputo coniugare ritmi africani, sonorità occidentali e spirito latino in un brano che ha fatto muovere il bacino a tutto il mondo. Ovviamente è Waka Waka di Shakira. This time for Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh, samina, mina, samina. I mondiali di calcio del 2010 in Sudafrica sono appena passati. Campione del mondo in carica è la Spagna, come d'altra parte l'ormai mitico Paul Popol aveva previsto con largo anticipo. L'Italia dà l'addio al suo sogno con la partita contro la Slovacchia, fuori al primo turno senza nemmeno una vittoria. Eppure, dal momento magico, sono passati solo 4 anni. Berlino, 9 luglio 2006. All'Olympia Stadion tutto è pronto per la finale Italia-Francia. I tifosi di entrambe le parti, eccitati sugli spalti con addosso i colori della loro squadra, hanno speso fino a 5.000 euro per comprare un biglietto che permette l'accesso a un ricordo indelebile. Della festa. L'Italia è campione del mondo per la 4ª volta. La corsa in campo di Lippi, le lacrime della panchina, gli abbracci, le urla, l'emozione incontenibile. Il capitano, Fabio Cannavaro, come Dino Zoff 24 anni prima in Spagna, alza la coppa al cielo per condividerla con i milioni di tifosi allo stadio e a casa. La gente esce di corsa, si riversa nelle piazze, si mette in coda con le automobili straripanti di striscioni, bandiere e scudetti di cartone. Nell'aria si sente un'unica colonna sonora che unisce il nord al sud, un coro che cementa un paese, un suono che rimbomba di città in città senza contenere alcun significato se non quello di condividere una gioia infinita. Già intonata dalla tifoseria belga della squadra di calcio del Bruges, la canzone diventa il simbolo della tifoseria romanista dopo Bruges-Roma del 15 febbraio 2006. Come tutti i cori da stadio, è partito da qualche individuo. Probabilmente si è esteso a una cerchia di amici sugli spalti degli stadi e piano piano ha sconfinato, fino a diventare, al di là di quelli ufficiali, il vero inno degli azzurri dei mondiali in Germania. Popopò è più che altro un accompagnamento onomatopeico che vale tanto quanto il rumore di una vuvuzela. È infantile, facile, orecchiabile, come soltanto i tormentoni sanno essere. Ma l'avventura di questo successo intonato a squarciagola da grandi e piccoli parte in realtà da una grande canzone. Da un pezzo rock nato a Detroit nel 2003 e ispirato a una storpiatura di Salvation Army, l'esercito della salvezza. Nel video mandato in onda in continuazione all'interno del palinsesto dei canali tematici musicali si vede sostanzialmente una coreografia di triangoli che si rifà alla locandina di Arancia Meccanica, all'interno dei quali suona il gruppo. Si tratta di una band di culto di cui oggi a Destini Incrociati vi vogliamo raccontare la curiosa e intrigante storia. Il gruppo si chiama The White Stripes ed è composto da 2 soli membri, Jack White e Meg White. Jack White e Meg White. And today I'm joined with Jack and Meg White. Hey guys. Good, going all right. Abituati a un pubblico fedele, ma di certo non così popolare, dopo l'esplosione degli accordi base della loro canzone, perché di qualche accordo si tratta, ai mondiali, si sono ritrovati di colpo catapultati agli onori della cronaca. E la sorpresa per Jack è stata enorme. Non me lo sarei mai aspettato. Seven Nation Army nella mia testa era la cosa più lontana che si potesse immaginare dal tormentone. E invece con i mondiali ho iniziato a sentirla ovunque. Il fenomeno White Stripes è esploso in Italia dopo i mondiali di calcio del 2006, quando il coro, creato sulla base di Seven Nation Army, ha conquistato la penisola. Ma Jack e Meg White, gli unici componenti della band, lui voce, chitarra e qualche volta piano, lei voce, batteria e qualche volta organo, erano già un gruppo rock esplosivo, celebrato da pubblico e critica dall'America all'Europa, anche se magari non così popolari come un classico gruppo mainstream. Artefice del loro successo è stato il destino, che nel lontano 1997 ha fatto incontrare allo stravagante Jack, che ancora non aveva cambiato nome e si chiamava John Anthony Gillis, l'eccentrica Lolita Meg. John, casualità o presagio, nasce a Detroit nel 1975, proprio il 9 di luglio, lo stesso giorno nel quale si sarebbe verificata la storica vittoria azzurra. Carnagione bianchissima, viso tondo e capelli nero corvino, fa parte di una grande famiglia cattolica, che fin da piccolo lo educa a comportarsi come un bravo bambino. Forse per questo, per uno spirito di ribellione ancora assopito, si ha una passione profonda per tutto ciò che riguarda la guerra. Da piccolo, intorno ai 5-6 anni, ero ossessionato da tutto ciò che aveva a che fare con la guerra e con l'esercito. Avevo quasi deciso di arruolarmi nei Marines. Poi mi sono spaventato e ci ho ripensato. Una volta un vero sergente venne a casa nostra e la sola vista mi fece cambiare idea. Detroit, Michigan, undicesima città degli States per numero di abitanti, fa parte di una vasta zona industriale nel cuore della regione dei Grandi Laghi. Il suo panorama, fatto di altissimi grattacieli, è uno dei più riconoscibili al mondo, mentre il suo centro, un agglomerato di vari stili architettonici che spaziano dal postmoderno all'art déco, riserva distretti storici ricchi di musei, festival e negozi che attirano ogni anno migliaia di turisti. Ma John esce difficilmente dal suo quartiere, periferia a sud-ovest, per quanto non riesca a sentirsene parte fino in fondo. Soprattutto non gli interessa per nulla integrarsi, non fa nessuno sforzo per venire fuori dalla sua solitudine. Il vicinato era in prevalenza messicano e nero. La scuola era messicana e tutti i bambini allora ascoltavano rap e house music, che io davvero non riuscivo a sopportare. Per 18 anni sono stato musicalmente snob e con la puzza sotto il naso. Gli piace il pomeriggio dopo la scuola chiudere la finestra che la mamma ha aperto durante la sua assenza e rifugiarsi, coricato per terra in tuta e senza scarpe, nella musica tradizionale americana, nel country e nel blues. Chiude gli occhi, sente qualche canzone, tiene il tempo con la mano sul pavimento e poi si alza e prende in mano la sua chitarra per provare a seguire la melodia intuendone gli accordi. Clap your hands for me now, everybody! La storia del country è complessa e affascinante, perché sono molteplici le influenze che le hanno permesso di svilupparsi e crescere. Musica tradizionale del sud, caratterizzata da strumenti come violino e banjo, musica celtica degli immigrati anglo-irlandesi, il blues nero dei campi di cotone. Questo genere concentra ed esprime tutta l'emozione della grande avventura americana, le sue vicende più autentiche e lo spirito più genuino. È una musica semplice, diretta, composta dalla gente per la gente. Parla con il cuore, racconta le pene, l'orgoglio, gli amori e i tradimenti di un intero mondo, quello della provincia americana. Ogni brano è una storia che spesso si conclude con la morale. Donne, grandi bevute di whisky, divertimento, omicidi, sono i grandi temi toccati. Il ballo country per eccellenza è la line dance, la danza in linea, in cui un gruppo di persone si dispone su una o più linee, tutti rivolti dallo stesso lato, ed esegue coreografie a tempo senza mai avere un contatto fisico. Nella musica tradizionale, nel country come nel blues, ci sono le nostre radici. È l'esperienza che mi porto dentro sia come musicista che come uomo, che ho cercato di trasferire nella mia musica. Il blues, John, lo scopre attraverso suo padre, che ascolta la domenica dopo la messa. Son House, Charlie Parton, Robert Johnson sono i bluesmen più intensi e i loro pezzi, grazie alla ripetizione delle strofe, sono facili sia da cantare che da suonare. Ma quello che gli piace davvero è l'onestà di questa musica. Il blues è l'apice della musica americana. Credo che tutta la musica nata nel XX secolo abbia sempre una qualche radice nel blues. Ciò che i bluesmen hanno fatto è stato riportare tutto all'essenzialità, scomporre la composizione musicale nei tre elementi fondamentali: il racconto, la melodia, il ritmo. Odio il fatto che i bluesmen siano stati parodiati con cose alla Blues Brothers. I vecchi bluesmen sono degli dei della musica, ci dovrebbero essere le loro statue ovunque, in ogni città. Se sei davvero un ragazzo a cui piace la musica, ogni novità ti incuriosisce fino a volerne sapere tutto. E per John, che nella musica vede addirittura la sua ragione di vita, dopo la scoperta del country e del blues, è il momento del punk rock e della batteria. Questa volta a fargli sentire Stooges, Velvet Underground, Ramones e Brian, il tappezziere presso cui sta cercando di imparare un lavoro per riuscire a sbarcare il lunario. Vorrebbe, dopo qualche mese di apprendistato, mettersi in proprio, ma non ci mette molto a capire che non riuscirebbe mai a chiedere i soldi a chi gli portasse un divano da riparare. John è un romantico, non ha lo spirito per gli affari, si sente un artista. Passa le ore nel retrobottega a strimpellare con Brian ed escogita un modo per lasciare qualcosa in più di una semplice manodopera. Ho pensato che era bello lasciare una poesia dentro alle fodere, nei cuscini. Insomma, mi piaceva l'idea che anni dopo magari un altro tappezziere avrebbe letto quello che io avevo scritto. I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine. High as a mountain and deep as a river. Come rain or come shine. Destini incrociati. A Destini Incrociati siamo negli anni 90 e un ragazzo di Detroit, John Anthony Gillis, passa le sue giornate ad ascoltare musica e a suonarla. Come molti, desidera vivere di musica e per questo assorbe dagli altri musicisti e studia. Ancora non immagina che il suo futuro sarà profondamente dipendente da una logica che non ha nulla a che fare con la preparazione, lo studio e il virtuosismo musicale. Ha imparato a usare la chitarra in perfetto stile blues e adesso, grazie al proprietario del negozio di tappezzeria in cui lavora, Brian, si diverte a esagerare con la batteria e il punk. I due a volte non sentono neanche il campanello della porta che segnala l'entrata di qualche cliente, tanto sono assorti nelle loro prove. E quando il gioco sembra diventare qualcosa di più, decidono di provare a fare sul serio, fondando un duo. Qualche cover, alcune registrazioni, poche serate per i locali della città. Di certo, il leader è John. È lui che controlla ogni dettaglio, fino al minimo particolare, e che continua a incitare Brian perché riesca a tirar fuori tutto quello che può dal suo rullante. Ma un giorno tutto questo non è più abbastanza. Volevo bene a Brian, per me era come un fratello, ma musicalmente io stavo crescendo, volevo approfondire, sentivo che ci stavamo distanziando sempre di più. Ho dovuto separarmi da lui, non era più quello che faceva per me. John torna fisicamente e metaforicamente nella sua cameretta. Solo con la sua chitarra continua a scrivere canzoni. Cerca una band nella quale inserirsi ed è così dotato che a tutti basta un accenno di poche note per accoglierlo a braccia aperte. Per un motivo o per l'altro, però, per incomprensioni o noia, ogni volta molla il colpo. È alla continua ricerca del sound giusto, non riesce a trovare la persona che possa completarlo, che possa dare al suo stile davvero personale quell'ingrediente mancante che faccia esplodere la scintilla. Finché un giorno incontra Meg e la svolta della sua esistenza comincia con un bacio. Meg White, occhi da cerbiato, viso angelico e lunghi capelli nero corvino, lisci, che lascia sempre sciolti sulle spalle, è una ragazza di Detroit che per mantenersi fa la cameriera. Molte delle sue amiche fanno lo stesso. C'è sempre bisogno di personale, nelle tavole calde. C'è bisogno di qualcuno che passi continuamente tra i tavoli a proporre caffè bollente per non lasciare mai gli avventori con la tazza vuota. In fondo non mi dispiaceva. I turni non erano male e la gente se ne stava per conto proprio. Non cercava a tutti i costi di cominciare una conversazione. Parlare forse è una delle cose che Meg odia di più al mondo. Non è presuntuosa, non è arrogante, non sta particolarmente attenta a tenere le distanze, semplicemente le piacciono i silenzi, gli sguardi, quelle attese che se si sanno interpretare raccontano più di mille parole. John è il contrario, e di parole l'ha in onda fin dal primo incontro, proprio in quel bar nel centro di Royal Oak, un sobborgo di Detroit, dove lei sta ritirando dei bicchieri vuoti da un tavolo. Sono buffi da vedere, due creature in piedi, l'una di fronte all'altra. Lui che non smette di dire, muoversi, gesticolare, e lei ferma, zitta, e lo guarda e ascolta. Ma la cosa più sorprendente è che si assomigliano moltissimo, tanto da sembrare fratelli. John e Meg sembrano i classici opposti che si attraggono. Si innamorano uniti dalla voglia di ribaltare le regole e le convenzioni sociali, ma senza fare molto rumore, semplicemente cercando di essere quello che sono. Sono molto giovani quando decidono di sposarsi, ma sentono l'impazienza di chi vuole tutto e subito. Organizzano un matrimonio eccentrico, con pochi invitati e una cerimonia che più che altro ha il sapore della festa. Il 21 settembre del 1996 diventano ufficialmente marito e moglie e John, con il suo solito spirito poco ortodosso, prende il cognome di Meg. È così che John Anthony Gillis diventa Jack White. Sentivo che era una cosa bella da fare per lei, per farla sentire importante, per non farla sentire una donna come le altre che devono adeguarsi al maschio della coppia. Non avevo una virilità da dimostrare, poi Jack White suonava così bene. La vita coniugale procede a meraviglia. I due restano a vivere a Detroit e cercano di mantenersi come riescono, facendosi bastare le piccole cose per essere felici. Jack però, che continua a passare da una band all'altra, soffre la frustrazione dell'inconcludenza. Sente che è sul punto di farcela, ma che gli manca qualcosa. Non riesce ad andare fino in fondo nel suo essere artista. Meg, quando lui le confida il suo malessere, cerca di tirargli su il morale, prendendolo in giro, giocando con lui per cercare di sdrammatizzare. E una mattina, senza accorgersene, cambia all'improvviso il percorso del suo destino. Jack è seduto sul divano, teso, preoccupato. Sta pensando di darsi una data di scadenza. O riesce a fare davvero il musicista, solo e soltanto il musicista, entro qualche mese, o smette del tutto. Meg si siede alla batteria, prende in mano le bacchette e improvvisa un rullo per attirare la sua attenzione. Ma Jack si alza di scatto, prende in mano la chitarra e accenna qualche nota per seguirla. Lei sta il gioco e continua con le percussioni. Jack inizia a sorridere, è eccitato ed entusiasta, ha finalmente trovato il sound che cerca da tutta la vita. È il modo di suonare assolutamente primitivo di Meg, che dà al gruppo la chiave giusta con la quale irrompere nella musica seria. Il suono di Meg è quello di una bambina che cerca di suonare la batteria sforzandosi di dare il meglio. Comincia tutto così, con un mix tra l'eccezionale tecnica di Jack e la spontaneità infantile di Meg. Lui non ha più dubbi, è con lei che vuole suonare. Anche per la scelta del nome, i due seguono l'istinto. Un pomeriggio, dopo una lunga camminata per le strade di Detroit, entrano in un negozio di tabacchi, bibite e giornali e comprano un pacchetto di White Stripes, le caramelle alla menta bianche e rosse che tutti i bambini americani conoscono. È una vera e propria folgorazione. Jack decide che quel pacchetto deve essere dipinto come fosse un'icona sul rullante di Meg e che White Stripes è il nome perfetto per rappresentarli. Jack sapeva che io adoravo quelle caramelle. Ne mangiavo continuamente. Non era solo il gusto, era la forma, il ricordo di quando le prendevo fuori da scuola. Mi ricordavano di quando ero piccola. Per Jack è davvero la svolta, non soltanto musicale, ma anche di spirito. Da questo momento, grazie a Meg, ritrova la voglia di fare. Passa le giornate a immaginare, a scrivere, inventare. Quello che finora gli è mancato non è soltanto un ritmo, un suono che desse armonia all'insieme. Gli è mancato uno sguardo con cui affrontare il mondo. Il punto di vista è importante in qualsiasi creazione, un romanzo, un progetto fotografico, un pezzo comico. A maggior ragione oggi, che tutto sembra essere già visto, già fatto da qualcun altro prima, la chiave del successo è cercare di andare a fondo di uno stesso grande tema secondo un'angolazione del tutto nuova e personale. E questo è il nuovo atteggiamento di Jack nei confronti del rock. Quando abbiamo iniziato, è stato come trovare un modo per tornare all'infanzia. Senza per forza prendere tutto come una parodia. Più che altro ha a che fare con il modo in cui i bambini guardano al mondo e alle cose. Sono convinto che ci sia dello humor profondamente sepolto in ogni cosa. Meg e Jack White, moglie e marito, sono finalmente sulla strada giusta. Hanno due voci diversissime, la loro musica, una chitarra, una batteria e soprattutto un'anima comune e sorprendente. Ma per entrare a pieno titolo nell'Olimpo del rock manca ancora qualche tocco. Tra poco, a destini incrociati. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo a Detroit, nel 1997. e una coppia di giovani sposi sta per sfondare nel mondo della musica. Lui è Jack White, al secolo John Anthony Gillis, e ha preso il cognome della moglie Meg dopo il matrimonio. Da quando è piccolo è appassionato di country, blues e rock, e suona sognando di fare il musicista. Per anni va in cerca del sound giusto, passando di gruppo in gruppo, provando con vari musicisti e in diverse situazioni, ma la svolta del suo destino arriva proprio da Meg, che un giorno per gioco si siede alla batteria e improvvisa un suono sorprendentemente primitivo e infantile, dal quale Jack viene letteralmente catturato. Nascono, dal nome di famose caramelle alla menta, i White Stripes. La verità delle cose, ecco cosa mi interessa. Quando faccio qualcosa non posso fare a meno di chiedermi se quello che sto facendo ha un'anima, un senso, se è davvero necessario. Meg e Jack dividono la vita e il palcoscenico. Lui scrive, da chitarra e voce. Lei ogni tanto canta, ma soprattutto sta alla batteria. Decidono insieme che l'indole disincantata e infantile di Meg deve avvolgere completamente il loro progetto. E così aggiungono al nome delle caramelle i colori che le evocano. Cominciano a vestirsi soltanto di bianco e rosso. Bianco come l'innocenza, rosso come la rabbia. Perché la loro immagine sia immediatamente riconoscibile. L'esperimento funziona. Tra i club di Detroit si sparge la voce e gli stravaganti White Stripes registrano ogni sera il tutto esaurito. Quando il pubblico dopo i concerti si accalca fuori dai camerini per fargli i complimenti, c'è sempre qualcuno che gli chiede, per via della loro eccezionale somiglianza fisica, se siano fratello e sorella. E una sera Jack, per scherzo, dice di sì. Ognuno vuole lo scoop, ma non è quello che hai bisogno di sapere, perché non ha niente in comune con la musica che facciamo. Di quello che si crea potete parlare, come sono le canzoni, come ci presentiamo sul palco, come l'estetica, l'artwise e tutto ciò che stiamo creando. È come chiedere a Michelangelo che tipo di scarpe porti. Non ha davvero niente in comune con la pittura. Alla fine non ha importanza, perché penso sempre che tra 20 anni l'unica cosa che resterà saranno i nostri dischi, le nostre foto. Se con queste cose abbiamo fatto un buon lavoro, resterà per sempre. E questa è la cosa davvero importante. Al momento di debuttare con il primo singolo, il gioco continua. Complice lo stesso cognome e con una grande voglia di prendere in giro lo Star System, Jack e Meg si spacciano definitivamente per fratelli. Escono Let's Shake Hands e Lafayette Blues per l'etichetta Italy Records. E pochi mesi dopo è la volta di The Big Three Killed My Baby, che rimarca il legame quasi cabalistico di Jack con il numero 3. Segue nel 1999 il primo CD pubblicato con il titolo omonimo The White Stripes, ma se il circuito underground ormai è già conquistato, è l'album The Stelle del 2000 che li rende veramente popolari. Meg e Jack non lasciano nulla al caso, hanno studiato la loro immagine fin nei minimi dettagli. Il titolo del lavoro, The Stelle, richiama una corrente artistica olandese basata sui colori semplici, rosso e bianco, passione e candore, a cui aggiungono la durezza del nero. Il mondo dà il benvenuto a due nuove star. Well, Holly, I love you too, but there's just so much that I don't know about you. Holly, give me some of your English love. If I did that, Jack, I'd have one in the other. Why don't you go off and love yourself? If I did that, Holly, there won't be anything left for anybody else. I White Stripes stanno conquistando il pianeta. Dopo l'America, entrano nelle classifiche internazionali. Il mix tra la musica e l'immagine è esplosivo e le riviste di settore dedicano pagine alla coppia che tutti credono di fratelli, ma che in realtà è composta da marito e moglie. Sul magazine Spin si legge: Jack White è la rock star più cool del music biz. È una combinazione tra atteggiamento da stronzo e originalità testarda, grazie al Tera e capacità di indossare pantaloni bianchi e t-shirt rossa ogni giorno della settimana. Già prima del terzo album, White Blood Cells, il pubblico li acclama e la critica li ama. Michel Gondry, regista di culto, gira per loro il video del singolo Fell in Love with a Girl, nel quale prende vita un'animazione Lego che fa conquistare vari riconoscimenti, tra i quali 3 premi agli MTV Music Awards del 2002. Nel frattempo Jack e Meg divorziano, ma continuano instancabilmente a lavorare insieme. Salta fuori anche la verità sul fatto che non sono fratelli, ma i due continuano per la loro strada senza curarsene troppo, anzi ben coscienti che tutto serve per far parlare di loro. Diventano, da comune rock band, una vera e propria icona. E perfino Jim Jarmusch li vuole insieme a Benigni, Tom Waits e molti altri nel suo film corale in bianco e nero Coffee and Cigarettes. Allora Jack, non mi parli della bobina di Tesla? Hai detto che non volevi saperla. Sì, lo so. Prima non volevo. Non so se mi va ancora di parlarne. Dai, Jack. L'hai trascinata fin qui col tuo carrettino rosso. Racconta, dai, ti ascolto. Beh, per costruirla mi sono basato sui disegni dell'inventore, Nikola Tesla. Si tratta di un trasformatore con una bobina primaria e una secondaria accordate per risuonare. In buona sostanza, un trasformatore che converte una corrente a basso voltaggio e alta intensità in una a bassa intensità e alto voltaggio, a frequenze elevate. Ti ricordi che quando eravamo piccoli avevi quello specchietto da trucco di Barbie? Sì, mi ricordo. C'era una piccola lampada a fluorescenza. Mm-hmm. Beh, l'ha inventata Nikola Tesla. Senza di lui non avremmo la corrente alternata, la radio, la televisione, i raggi X e terapie annesse, il motore a induzione, l'acceleratore di particelle, il laser. Non esisterebbero se non fosse stato per lui. E il gruppo rock di Tesla. I White Stripes continuano a sfornare successi. Vendono milioni di copie ovunque, girano video con artisti del calibro di Sofia Coppola. Le loro copertine evocano sempre il loro mondo bianco e rosso, come tutto quello che fanno. Elephant, nel 2003, vince un Grammy e viene inserito da Rolling Stones al 390° posto nella classifica dei 500 album più belli di tutti i tempi. Seven Nation Army, il singolo estratto, passa dalle top 10 alle piazze per fare da colonna sonora alla vittoria italiana dei mondiali nel 2006. La strana coppia bianca e rossa è entrata nella leggenda. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.